Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Voglio riaffermare l'idea che la gente deve soffrire. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. L'indigesto. Notizie e approfondimenti in salsa arancione. Le 16:59, addirittura un minuto prima, comincia questa puntata dell'Indigesto. Un buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti da Alessandro Canella. Staremo insieme un'oretta per approfondire temi di attualità, ma come avete già scoperto nella giornata di ieri, in questa settimana il palinsesto di Radio Città Fujiko è completamente stravolto, perché abbiamo messo in piedi un'iniziativa che si intitola Dalla liberazione al lavoro, e ogni giorno approfondiamo il tema del lavoro, ma il tema anche della contrarietà alla guerra, all'interno di diversi momenti nel palinsesto di ogni giornata. E nella fascia dell'indigesto, quella che conduco ogni giorno, proprio appunto ogni giorno c'è una tavola rotonda incentrata sul tema del lavoro. Ieri abbiamo parlato di lavoratrici e lavoratori contro la guerra, oggi altri temi che sono piuttosto centrali. Abbiamo intitolato appunto questa tavola rotonda, le lotte, il salario, i diritti, e fra poco vi presenterò gli ospiti e le ospiti che abbiamo in questa chiacchierata che durerà circa un'oretta. Innanzitutto però il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi, che è il 333-180-9494. Oltre a salutare ovviamente gli ascoltatori che sono sintonizzati sui 103.1 FM per Bologna e provincia o sullo streaming della radio, saluto ovviamente anche chi sta seguendo questa diretta dalla pagina Facebook di Radio Città Fujiko. Allora, le lotte, il salario, i diritti, abbiamo invitato tre persone per affrontare questi temi. Ovviamente in un'ora non è che riusciamo a sviluppare tutto quello che ci sarebbe da dire su questi grandi temi, però ci proveremo. Comincio allora a presentarvi i nostri ospiti. Saluto Raffaella Cascello di App sulla Testa, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno già sentito sulle nostre frequenze, perché la sua organizzazione ha dato vita a una campagna sul salario minimo. Buon pomeriggio, Raffaella. Ciao Alessandro e ciao a tutti e tutti, bentrovati. Poi un'altra voce che sentite spesso, ovviamente, anche quella di Massimo Betti, del sindacato generale di base. Lo abbiamo sentito ovviamente su tanti temi, tante vertenze, e anche sulla questione della democrazia sindacale, che forse, se c'è tempo, oggi vorremmo affrontare. Buon pomeriggio anche a te, Massimo. E poi c'è Marta Fana, un'altra voce che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono già, economista, autrice di Non è lavoro, è sfruttamento e basta salari da fame. Possiamo, Marta, definirti anche fustigatrice di liberisti nelle dirette con cui sei costretta a confrontarti? Ma in realtà vorrei rassicurare tutti, intanto saluto che ho hobby migliori, diciamo, un po' più divertenti e entusiasmanti, però, come dire, rimaniamo non una minoranza reale, ma una minoranza, no, nel dibattito, e di conseguenza uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrebbe pur farlo. Allora, cominciamo a entrare nel vivo di questa chiacchierata. Veniamo da 2 anni di pandemia, adesso la pandemia non fa più capolino quasi sui giornali, perché c'è una guerra. Ieri tra l'altro abbiamo parlato anche delle conseguenze sociali che le lavoratrici, i lavoratori, ma diciamo tutto il ceto popolare italiano anche, sta subendo da questa guerra, con il caro vita eccetera. Come siamo usciti da questi 2 anni di pandemia? Come stanno i lavoratori e le lavoratrici oggi, appunto, dopo 2 anni di pandemia? Ma sicuramente non stanno meglio di prima e non stanno relativamente bene, ovvero sicuramente diciamo in termini come dire, legati tecnicamente alla pandemia, possiamo dire meglio perché fortunatamente il virus, come dire, circola, purtroppo ci sono tantissimi casi, tantissime morti ancora durante diciamo, le settimane che non posso questo 2021, tuttavia la vulnerabilità sia economica che sociale cui si sono scontrati sostanzialmente lavoratori e lavoratrici fin dall'inizio della pandemia è continuata in qualche modo ad aggravarsi perché appunto durante la pandemia i più vulnerabili hanno perso relativamente di più, quindi il tema dei salari, il tema dei diritti, della stabilità lavorativa ha pesato in modo asimmetrico dentro la società, questa è una cosa che ci dobbiamo dire e riconoscere. Dall'altro però, come dire, non siamo neanche usciti da questa pandemia, che l'inflazione è di conseguenza quello che comporta la perdita di potere d'acquisto su già scarsi redditi da lavoro e anche scarsi risparmi, voglio dire, è andata in qualche modo ad accentuare un po' questa rincorsa al deterioramento delle condizioni materiali, ma anche, se vogliamo, di prospettive, cioè di vulnerabilità attuale e di prospettive che sono in qualche modo a rischio, perché appunto l'aumento dei costi dell'energia, che significa comunque riduzione della produzione, significa con maggiore probabilità di disoccupazione. Il fatto che molte più famiglie non possano più permettersi determinati consumi significa necessariamente, no, crollo della domanda, crollo anche della produzione. E dall'altro lato, come dire, non c'è da star sereni se dal punto di vista politico l'azione di governo è completamente assente nei confronti dei lavoratori, perché guardate quello che è successo già stamattina quando il ministro del lavoro Orlando in una cosa timidissima dice: guardate imprese, vi diamo i contributi per far fronte all'aumento dei prezzi, i prezzi dell'energia che poi vengono scaricati i prezzi sostanzialmente dei beni alimentari, quindi parliamo di beni essenziali che vengono consumati in quota maggiore rispetto al reddito, soprattutto dalle famiglie meno abbienti, perché si possono permettere beni essenziali e nient'altro. Orlando dice: noi vi veniamo incontro con degli incentivi, però vincoliamoli al fatto che aumentate un po' i salari o anche diciamo i livelli contrattuali, quindi non soltanto chi sta fuori dal contratto, chi ha dei salari diciamo sotto la soglia di povertà. E Bonomi di Confindustria, ma non soltanto, risponde: no, non se ne parla proprio, noi non facciamo un compromesso che ci date qualcosa e noi la condividiamo con i lavoratori. Quindi dire una schizofrenia che secondo me non si stanno proprio rendendo conto di cosa stanno andando incontro. Spero appunto una reazione più dal punto di vista industriale che non quello dei lavoratori, che una linea dovrebbero mantenerla indipendentemente da una proposta così timida e che appunto poi alla luce delle, no, della realtà, della concretezza, non chiede neanche di ripristinare il potere d'acquisto dei lavoratori, perché oggi come dire, una proposta di buonsenso per niente rivoluzionaria è quella di dire: indicizziamo mensilmente ogni 2-3 mesi i salari al totale dell'inflazione, quindi sia i costi energetici sia tutti diciamo i costi relativi ai prezzi dei beni di consumo. Continuiamo ad avere il record storico di lavoratori precari, abbiamo visto che anche questa diciamo non riprende, ma in qualche modo l'abbandonamento della. Ecco, va bene, vediamo se nel frattempo abbiamo recuperato Massimo Betti e appunto gli chiedo appunto se gli rigiro la domanda di prima, anche secondo lui quali sono le condizioni che lavoratrici e lavoratori stanno affrontando dopo la pandemia, che ci ricordava Marta Fana non è ancora terminata. Sì, appunto, tu prima... Ok, proviamo. Entro al tunnel che è cominciato diciamo 2 anni fa, già con una base di partenza che non era sicuramente delle migliori. Oggi la situazione è ulteriormente peggiorata per via chiaramente dello scenario bellico, della guerra in corso, del contesto di stagflazione, cioè di recessione e inflazione contemporanea che stiamo vivendo. Per quello che riguarda il post pandemia, intanto vorrei dire che il peggioramento è dovuto ad alcuni fattori, uno dei quali anche soggettivo, cioè la difficoltà per i lavoratori e le lavoratrici di essere un soggetto attivo non solo nella contrattazione ma soprattutto nel necessario conflitto sindacale, che è quello che uno vuole chiaramente ottenere risultati a loro a proprio favore. Il fatto che moltissimi luoghi di lavoro, in, non sono più molti sono di lavoro, sono frequentate quindi molto meno perché della pandemia, è un dato. L'altro dato è che dove invece il lavoratore ha continuato a lavorare, lavorare in questi periodi in grandissima parte, sempre, anche durante i due anni della pandemia, anche nei momenti più critici, in verità sono aumentati i tipi di lavoro, ma questo non è corrisposto a un aumento degli organici, un aumento del numero di lavoratori, non è corrisposto a una diminuzione di orario, qualità di salario, tanto per capirci che una delle parole d'ordine oramai sono da qualche decennio, il movimento dei lavoratori, perlomeno quello conflittuale di base, porta avanti, non è corrisposto un miglioramento delle loro condizioni. Qualche incentivo magari in una prima fase della pandemia, verifica ad esempio a tutto il sistema della logistica, la circolazione delle merci e quant'altro. Altri lavoratori, come quelli, stiamo parlando di quei settori che sono rimasti in campo anche durante come dire, la pandemia, anche nel momento in cui il virus era molto virulento, appunto, ed era complicato anche spostarsi, ad esempio, nei trasporti, nella sanità, le condizioni sono peggiorate nonostante tutti la propaganda che abbiamo assistito, no? Erano tutti eroi, a partire appunto dal lavoratore della sanità, ma anche quelli dei trasporti sono finiti per essere lavoratori estremamente stressati, con grossi problemi relativi appunto al peggioramento di queste condizioni di lavoro. A questo non è corrisposto nulla, nemmeno sostanzialmente nemmeno gli incentivi che sono stati propagandati, promessi e quant'altro, ma nemmeno sono aumentati i posti di lavoro, nemmeno in sanità, dove in sostanza sono state fatte molte assunzioni, fra virgolette, perché sono state quasi tutte a tempo determinato. Per chi poi invece è rimasto a casa, come magari nei settori, diciamo, della programmazione, nei settori della burocrazia, della pubblica amministrazione e quant'altro, a lavorare a casa, in una prima fase il lavoro, diciamo, da remoto ha aumentato il livello di produttività, nonostante appunto si sia scatenata anche lì una propaganda da parte governativa, ma non solo, dove tesa a dimostrare che invece, insomma, chi lavorava da casa sostanzialmente non lavorava, era un fannullone o poco più. Questa cosa che è stata misurata, credo, da tutti, l'aumento della produttività, in verità è passato in cavalleria dentro ai ragionamenti di tipo sindacale, contrattuale, di confronto delle relazioni sindacali, fino a diventare appunto elementi di propaganda, quindi oggi nella sostanza non vi è un ragionamento serio nella gestione di questa, diciamo così, parte, fra virgolette, fra molte virgolette, innovativa del ciclo lavorativo. Quindi complessivamente, anche se sono andato in maniera molto schematica, me ne scuso, complessivamente le condizioni sono peggiorate, soprattutto le lavoratrici e i lavoratori sono diventati oggetto di propaganda in negativo. Per quello chiudo da dove ha cominciato, quello che riguarda la situazione attuale. Insomma, oggi chi ha cuore e interesse ai lavoratrici e lavoratori non può che pensare a una nuova. Allora, abbiamo dei problemi anche ancora, diciamo, facciamo una sintesi degli interventi di Marta Fana e Massimo Betti, è che le condizioni di lavoro sono peggiorate quanto le connessioni internet. E questo lo abbiamo capito. Vediamo se siamo più fortunati con Raffaella. Raffaella, ti volevo insomma partire da una suggestione che è arrivata già nella tavola rotonda di ieri, che riguarda i tempi di decisione della politica. La discussione sul salario minimo sta andando avanti da... Ho perso il conto, perché è un tema di cui si parla da tanto. Se ne parlava prima ancora della pandemia, se ne è parlato anche durante il governo Conte 2 e se ne è parlato anche all'inizio del governo Draghi, però non si è mai arrivati a un punto, mentre ci sono voluti pochi minuti per aumentare le spese militari. E da questo spunto che ti chiedo insomma la tua impressione. Sì, intanto anche io una riflessione un po' di carattere generale, perché a volte sembra che siamo noi, no, a raccontare un paese in macerie, quando basta andare a guardare un po' di dati per rendersi conto di quale sia la condizione anche proprio del benessere ecosostenibile, per dirla proprio con l'ultimo rapporto BES dell'Istat del nostro paese, 153 indicatori che ci raccontano che negli ultimi anni, soprattutto a causa della pandemia, la vita in Italia è completamente peggiorata, sia per quanto riguarda la salute che per quanto riguarda l'istruzione, il lavoro, i servizi sociali, la formazione, la ricerca, la qualità e la tutela del paesaggio. Cioè, insomma, no, siamo un paese che in questo momento avrebbe bisogno... Tu hai mandato questa diretta, come dire, anche come pubblicità sui canali Confindustria, qualcosa, che hai fatto? Esatto, forse c'è Confindustria che ci sta boicottando. E allora, questo è anche il bello della diretta, o il brutto per chi ascolta magari anche, però in attesa di recuperare anche Raffaella... Ci sono, ecco, vediamo. Ecco, adesso ma ci non sei. So perché, prima volta, giuro, però è andata così. Non so se volevi dare... No, vai pure, vai pure avanti. Okay. E dicevo, in fondo sono dati e informazioni che ci raccontano lo stato di salute del nostro paese. Lascia perplesso il fatto che l'unica volta che chi ci rappresenta riesce a mettersi d'accordo in poco tempo lo fa rispetto all'aumento delle spese sugli armamenti. Ora qui naturalmente non voglio stare a riproporre un dibattito che sta dilaniando il cosiddetto mondo progressista, giuro che non lo farò. Tuttavia, ecco, quello che mi viene da dire immediatamente è che senza dubbio il fatto che nel nostro paese le donne siano quelle che hanno subito maggiormente gli effetti della pandemia, che molte famiglie del mezzogiorno siano state costrette a richiedere aiuti a parenti ad amici per continuare ad andare avanti, perché hanno perso il lavoro, perché molto di quel lavoro era sommerso, il fatto che i nostri studenti e le nostre studentesse, i nostri giovanissimi siano praticamente in questo momento in grande crisi sul piano psicologico, il massimo che riescono a proporre è una misura non strutturata rispetto per esempio agli aiuti psicologici, ma invece riusciamo a proporre una cosa come quella, diciamo una proposta come quella dell'aumento delle spese militari con grande velocità, certo racconta lo stato del nostro paese, cioè certo racconta qual è anche la direzione di questo governo e qual è la direzione del governo dei migliori, no? Il governo dei migliori ha nella testa l'obiettivo, come dire, di andare in una direzione. A me sembra molto chiara quale sia questa direzione, non invertire la rotta delle politiche neoliberiste del corso degli ultimi anni e continuare a far pesare sempre maggiormente sulla pelle, sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici la crisi che incombe. Noi siamo figli di una grande crisi, quella del 2008, questa grande crisi del 2008 che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, e pensavamo essere la peggiore che ci poteva aspettare nell'arco della vita, e invece poi abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia e oggi stiamo facendo appunto i conti con l'economia di guerra. Parliamoci chiaro, stiamo facendo i conti con l'aumento del costo della vita, stiamo facendo i conti col fatto che l'inflazione va a toccare le tasche appunto dei lavoratori e delle lavoratrici. E proprio per questo lascia ancora maggiormente perplesso il fatto che la discussione sul salario minimo nel nostro paese sia una discussione che viene puntualmente accantonata e che non riesca ad avere un suo protagonismo all'interno del dibattito che abbiamo. Questo, io dico subito una cosa per essere chiara, a me sembra che come dire, le lotte per i lavoratori e le lavoratrici che sono state fatte nel corso del secolo scorso abbiano portato a una serie di punti di avanzamento non trascurabili, primo fra tutto la contrattazione collettiva nazionale. E però dico anche subito che la contrattazione collettiva nazionale non basta di per sé a difendere un enorme settore di lavoratori e di lavoratrici, anche più settori di lavoratori e lavoratrici, che invece appunto non sono tutelati dalla contrattazione collettiva. E questa cosa non può essere una cosa su cui si fa finta di niente, perché riguarda la vita delle persone, riguarda la dignità delle persone, riguarda riuscire ad arrivare a fine mese e riguarda il fatto che molte persone continuano a lavorare e vengono sfruttate. E quindi la nostra proposta è una proposta semplice, noi l'abbiamo detta nel modo più semplice che conosciamo, cioè che stabilire un salario minimo orario significa far uscire dallo sfruttamento migliaia di persone che in questo momento, pur avendo un lavoro, non hanno la possibilità, per esempio, banalmente, di avere una casa tutta propria e sono costretti a 35, 40, 45 anni a continuare a condividere le case, perché nel frattempo il caro affitti nelle città è tornato ad essere una cosa dopo che c'era stato un momento, diciamo, di tregua a causa della pandemia e dalla fuga delle città, è ritornato ad essere un problema consistente. Lo dice una che sta cercando una casa in una grande città in affitto e sta trovando una grande difficoltà a riuscire a trovare una casa che abbia a che fare con, cioè che possa essere sostenibile sul piano delle spese con il mio stipendio da docente, attenzione. Quindi neanche con uno stipendio che appunto non può essere definito decente in questo momento, nonostante, come dire, ci sarebbe da dire anche su quello, ma apriremo un altro capitolo. E questo appunto per dire, negli altri paesi lo strumento del salario minimo è uno strumento che è stato adottato in tantissimi paesi europei. Nel nostro paese si fa fatica a fare questo dibattito e soprattutto, voglio dire subito una cosa, si fa fatica anche a fare in modo che questa misura del salario minimo non serva ad essere l'ennesima misura per sfruttare i lavoratori e le lavoratrici, perché si può parlare in tanti modi di salario minimo, lo si può fare come lo fa Calenda, per esempio, e quindi pensando che il salario minimo sia l'ennesimo strumento al servizio dei padroni e al servizio degli imprenditori, o al contrario si può parlare di salario minimo come una soglia dignitosa sotto la quale non si può scendere a prescindere dalle categorie contrattuali e che permetta alle persone di vivere una vita dignitosa. Noi fissiamo questa soglia come app a 10 euro lordi l'ora e sulla base di quella vorremmo provare a costruire alleanze nel nostro paese affinché appunto poi diventi oggetto di una discussione politica. Sembrava, come dicevi tu bene, che durante il Conte 2 per un momento ci fosse lo spazio politico affinché, come dire, questa proposta potesse diventare una proposta concreta. Mi sembrerebbe un'occasione persa verso le prossime elezioni politiche se nessuno si intestasse in maniera forte questa battaglia e se nessuno se ne facesse portavoce. Questo ovviamente non basta solo, perché il salario minimo da solo non basta, soprattutto nei territori martoriati come quelli del Mezzogiorno, e da questo punto di vista noi diciamo anche qui che accanto al salario minimo va rafforzata la misura del reddito di cittadinanza. Ha voglia raccontare che il reddito di cittadinanza serve a imbroglioni, a persone che non hanno voglia di fare niente, eccetera, eccetera, perché invece al contrario, andando a guardare i dati, il reddito di cittadinanza, che è una misura in questo momento non particolarmente, diciamo, dignitosa, nel senso che secondo noi andrebbe estesa ulteriormente, in realtà ha permesso alle persone di non sprofondare ancora di più nella povertà in questi due anni terribili che abbiamo attraversato. Ecco, Raffaella ha, come dire, indicato due fronti. Adesso uso una terminologia di guerra, anche se purtroppo non mi piace, però parlando di lotte ci sono anche i fronti delle lotte, non solo i fronti bellici. Chiedo a Marta se è d'accordo con queste due battaglie che è necessario condurre e se ne individua anche delle altre, cioè salario minimo e rafforzamento di misure come il reddito di cittadinanza. Sì, diciamo che ovviamente è una domanda abbastanza retorica, parlando di questione salariale da anni, non a caso appunto il basta salari da fame nasce da quell'intuizione un po' che poi ripropone Raffaella, anche la campagna di App, ovvero qui c'è un punto che è prettamente politico. Allora, come diciamo noi brevemente, nessun lavoratore deve essere povero, indipendentemente da tutto. qualifica, contratto, genere, nazionalità, età, esperienza, titoli di studio, perché sostanzialmente uno dei principi base, secondo me, capisaldi della nostra Costituzione, ovvero l'articolo 36, senza il quale, ovvero secondo cui qualsiasi lavoratore ha diritto a una retribuzione dignitosa per far fronte appunto alla propria famiglia, alla propria vita e quella della propria famiglia, a me se non concesso che ce l'abbia, se la possa permettere, perché qui apriamo un grande fronte, ma che poi è uno dei pochi strumenti che permette in qualche modo di concretizzare quello che è l'articolo 3 della Costituzione, cioè noi siamo contro le diseguaglianze di modo strutturale e sostanziale. Perché? Perché sostanzialmente senza uguaglianza quello che viene meno è proprio, come dire, la dialettica democratica dentro un paese. È un po' quello che stiamo in qualche modo vivendo, al di là appunto della, secondo me, proprio della propaganda, diciamo, mediatica sul lavoro, sulla guerra e su quant'altro, no? Perché adesso il problema è: spegnete i condizionatori se non volete la guerra. E uno li guarda e dice: ma guarda che 7 milioni di famiglie non si possono permettere i condizionatori. Qui leggo un messaggio, no, che dice: sarò impopolare, ma si parla di risparmiare. I risparmi non ci sono, cioè i risparmi del 10% più povero della popolazione, della società italiana, ammontano a 0 euro. Cioè, non so come dire, stiamo parlando proprio di una condizione materiale. Ora, il tema però qual è? È giusto quello che dice giustamente, no, Raffaella, noi abbiamo un tema di salario che va oltre la contrattazione. La contrattazione oggi, soprattutto guardando quelli che sono i contratti e i salari mediani, cioè i salari del 50% della popolazione che lavora nel nostro paese, sono stagnanti e sono già bassi in termini assoluti, ovvero non portano sopra, come dire, quel livello di dignità di cui invece abbiamo bisogno. Allo stesso tempo però abbiamo bisogno di altre cose. Benissimo, ovviamente, il reddito di cittadinanza ed espandere in qualche modo quello che è appunto il welfare per chi non sta lavorando. Dopodiché c'è un altro tema, ed è la questione dei prezzi. Inutile mettere il salario minimo a 10 euro l'ora se poi gli affitti per una stanza in una provincia qualsiasi, non parlo delle grandi città, possano in qualche modo esplodere, perché sostanzialmente significa aumentare i salari per andare a trasferire salari alla rendita. Allo stesso tempo non possiamo parlare, come dire, di diritti e dignità piena nel momento in cui i mezzi pubblici non ci sono, e se ci sono si pagano e sono quasi elitisti, no? La grande differenza tra la mobilità urbana e regionale rispetto al Frecciarossa, cioè tutto questo fa potere d'acquisto delle persone, non so come dire. Quindi il tema della sanità, la scuola, unito a quello del tema del diritto alla casa, ma proprio in termini di produzione, cioè il valore casa e a chi vanno i prezzi delle case, con quello della mobilità, che poi si interseca sul nuovo modello produttivo, si interseca sulla questione ambientale e una vera riconversione energetica, sono fondamentali. Secondo me però appunto in Italia non c'è mai stata la volontà politica di portare avanti il discorso e il dibattito sul salario minimo, non conveniva a tanti, ma conveniva a tutti i lavoratori, non so come dire, quindi è sempre stato, no, nell'ombra. Però c'è un tema: in questi giorni si ricomincia a parlare di salario minimo, ovviamente con queste retoriche, parole buttate un po' là, no? Nuvolose, nebulose. Perché lo fanno? E questo è strategico e ce ne dobbiamo rendere conto, perché tutti i salari oggi, anche quelli che pensavamo essere sopra una certa soglia, col 7% di inflazione, significa che sono crollati. Quindi è molto più utile a questo punto rinnescare la battaglia tutta narrativa tra i garantiti e i meno garantiti, che adesso si vorrebbero aiutare ma tanto non lo faranno, pur di non toccare i salari che stanno sopra i 1200 euro e che adesso appunto sono stati ridotti e arrivano a 1000. Quindi stiamo attenti, perché la questione salariale in questo paese va tenuta tutta insieme. Un'altra cosa secondo me importante da dire su tutte le evidenze internazionali e politiche che abbiamo, quindi sul salario minimo applicato negli altri paesi europei, ma non soltanto, è che l'introduzione di un salario minimo alto, proprio come soglia sotto la quale non si può derogare, aiuta tantissimo anche la contrattazione collettiva e tutti i salari più in alto. Perché? Perché banalmente, come dire, fa forza e unisce davvero quelle lotte che noi facciamo sempre fatica a riconnettere o trovare un filo conduttore, e lo fa dal punto di vista vertenziale, ma lo fa anche dal punto di vista politico, perché anche là noi possiamo pure creare il partito del salario minimo. Il problema è che se poi il salario minimo non vive tra la gente e i lavoratori, i voti non si prendono, cioè non vai a governare, ed è quello che secondo me tenderanno a fare, tenere tutto nei palazzi e poi in qualche modo trovare una mediazione tra di loro, il che però non è un processo storico di trasformazione sociale, è soltanto che a un certo punto, come ha fatto Biden, si capisce che la tenuta del paese è a rischio, bisogna dare un po' di briciole, no? Il solito mangino brioche. Hai introdotto un tema che ci porta poi anche al tema della democrazia sindacale, però noi adesso abbiamo degli obblighi commerciali e quindi un minuto di pausa per la pubblicità, poi rientriamo, mentre la diretta ovviamente Facebook continuerà e noi ritorneremo sulla diretta radiofonica. L'indigesto. Lo sai che c'è un modo nuovo per sentirsi meglio e contemporaneamente entrare in una comunità esclusiva dove il benessere è al primo posto? Come fare? È semplice! Devi richiedere la Fidelity Card di Ionoforetica. Per averla, puoi recarti ai centri di terapia a Bologna in via Lemonia 47, oppure a Castelmaggiore in via Gramsci 211, oppure telefonare allo 051 31 40 488. Ionoforetica Fidelity Card. Sarebbe proprio un peccato non averla. Direttore sanitario, dottor Francesco Comerci. Che famo stasera? Sky o Netflix? Basta ca televisione, perché non uscimo? C'hai ragione, ti porto a mangiare la pinza. Eppure i carciofi a giudia e il vino dei castelli. Ma andannamo? Alla Romana, centro medicina, una garanzia, fidate di me. Ma ca la sicurezza come la mettiamo? Col distanziamento stanno a posto, tutti i DCPM sono rispettati. DPCM semmai. Vabbè, quelli. E le mascherine? Certo, qua l'unica sicurezza è che se aspettiamo non troviamo posto. Alla Romana, via Saffi 13, a medicina e su alaromana.it. Quanto sei bella Roma, quando è sera. L'artista catalana Angelica Liddle è probabilmente la più trasgressiva e imprevedibile attrice, regista, autrice e poetessa della scena contemporanea internazionale. Per la prima volta a Bologna, con le sue ritualità sceniche disturbanti e conturbanti, aprirà le braccia ad amanti wagneriani, animali cacciati e al torero Juan Belmonte, Libestod, il 29 e 30 aprile all'Arena del Sole. Info e prenotazioni sul sito dell'Arena o in biglietteria. L'indigesto. Le 17:32 minuti, torniamo in diretta sui 103.100 di Radio Città Fujiko, mentre la diretta Facebook non si era mai interrotta, con questa tavola rotonda con le lotte, il salario e i diritti, insieme a Raffaella Cascello, Massimo Betti e Marta Fana. Allora Massimo, torno da te, perché Marta prima, parlando del dibattito attorno al salario minimo, ha parlato diciamo di come possa, come dire, venire introdotto, se tra una mediazione tra i partiti oppure tra una discussione, con una discussione e una partecipazione anche delle lavoratrici e lavoratori. Solo che non sempre, come dire, questa partecipazione ha un'agibilità sindacale. E ovviamente qui è il tema della democrazia sindacale, che come SGB voi sentite molto, perché se non sbaglio siete il secondo sindacato, ad esempio, all'interno del comune di Bologna, ma non vi viene concessa agibilità, è così? Sì, è così, nel Comune di Bologna come in altri. Diciamo che il Comune di Bologna è abbastanza emblematico, perché in verità noi avevamo due accordi sottoscritti con i sindaci precedenti, che sono stati poi stracciati da Merola, dal sindaco precedente all'attuale, che l'attuale aveva detto di voler ripristinare, che poi invece non ha assolutamente ripristinato. E noi lì siamo storicamente il secondo sindacato, e anche alle recenti elezioni RSU siamo ulteriormente cresciuti, quindi dopo la CGL insomma c'è l'SGB. Non è quello, se mi permetti, mi scusi intanto per i problemi di connessione, che spero che adesso, avendo cambiato anche ufficio, si siano risolti. E però stavo ascoltando appunto chi mi ha preceduto sulla discussione anche salario minimo, come incide sui salari, anche reddito di cittadinanza, reddito sociale, adesso c'è con cittadinanza, ma insomma in termini teorici il reddito sociale quanto incide sui salari. Anche io voglio dire questo, questa è una discussione che va avanti a qualche decennio in verità, no? Se un reddito, presunto reddito sociale, aumenta o diminuisce o comprime i salari appunto di chi ha un lavoro, diciamo, no? Quindi contrattuale, eccetera. Ecco, su questo ci si è scontrati anche come, diciamo, idee di sindacato divergenti. Noi abbiamo sempre sostenuto il sindacato di base, penso complessivamente, quello conflittuale complessivamente, che in verità il reddito sociale avrebbe aiutato, avrebbe alzato la capacità contrattuale, i salari dei dipendenti. Non esiste un meccanismo automatico, perché appunto adesso, come ricordava Marta Fan, molto dipende dalla soggettività, quindi dalla capacità, no, di stare in campo dei lavoratori, delle forze sociali, quindi delle forze politiche. Io ad esempio credo che oggi non ci sono le condizioni sul piano politico, perché non ci sono le condizioni sul piano sociale, cioè noi dobbiamo costruire sul piano sociale e conseguente, cioè non ci sono le condizioni, solo quindi gioca a nostro sfavore, poi è chiaro che ci si prova sempre, però dobbiamo costruire sul piano sociale perché vi siano anche sul piano politico. Non penso che oggi i partiti politici siano in grado né di risolvere la questione della incapacità, diciamo, di tenuta del reddito di cittadinanza, né della necessità del reddito del salario minimo, né di quella che oggi è una necessità assoluta, che è l'indicizzazione dei salari, quella che i vecchi come me chiamano ancora una volta scala mobile, insomma, no? Poi chiaramente va declinata in maniera diversa rispetto a quella di allora, però insomma l'indicizzazione dei salari, che in un periodo di stagflazione come questo è oltre che necessario, soprattutto con oggi che siamo dentro con piedi e mani purtroppo a un contesto bellico da cui dobbiamo assolutamente liberarci. La democrazia sindacale è uno strumento. Nel momento in cui le condizioni, diciamo, i rapporti di forza sono quelli che sono, diminuisce anche la democrazia sindacale. O meglio, la democrazia sindacale, che significa non garantire alla singola organizzazione, quindi non è un elemento corporativo, diciamo, no? Legato a un'organizzazione e agli interessi di organizzazione, è legato al potere dei lavoratori. Cioè, democrazia sindacale significa quanto potere hanno realmente i lavoratori che intendono organizzarsi per ottenere dei risultati. Nel momento in cui i rapporti di forza sono quelli che sono, cala la democrazia sindacale, e anche viceversa. Cioè, molto spesso la questione della democrazia sindacale è stata utilizzata per comprimere la capacità dei lavoratori di confliggere, quindi di ottenere risultati. Cioè, è stata usata da quello che noi chiamiamo, diciamo, da metà degli anni 90, ma in verità adesso è anche un po' datato come termine, il sindacalismo della concertazione. Cioè, quando il sindacato si fa Stato, quando il sindacato si fa concertativo con padronato e con i governi, è chiaro che c'è necessità di trovare gli strumenti per fare in modo che non vi sia nient'altro che invece rimetta al centro il terreno del conflitto sindacale e sociale. Nel nostro caso ne posso portare mille esempi, però insomma dal 93 ad oggi sono stati firmati accordi quadro uno dietro l'altro da queste organizzazioni sindacali, dal quadro concertativo sindacale, che hanno diminuito gli spazi di agibilità fino ad arrivare all'accordo del 10 gennaio che è del 2014, se non mi ricordo male, che in sostanza addirittura ha definito nero su bianco il fatto che i sindacati firmatari si devono impegnare a fare degli accordi bilaterali, delle camere bilaterali, cioè con le controparti, con i datori di lavoro privati, e definire quali sanzioni dare ai lavoratori che scioperano nel momento in cui è aperta la contrattazione, cioè il divieto di scioperare, di scioperare anche di confliggere in qualsiasi altra maniera durante la contrattazione, e quindi sanzionare questi lavoratori. Questa parte fatto dell'accordo è rimasta lettera morta, perché non sono riusciti a portarla avanti, però già solo il fatto, come dire, non solo che l'abbiano messa nero su bianco, ma che abbiano cercato e cercano tuttora di metterla in campo, la dice tutta. Nel nostro caso, nel caso che citavi tu, poi chiudo perché è una materia che magari anche, come dire, un po' per addetti ai lavori, ma ripeto, riguarda il livello di potere dei lavoratori. Nel nostro caso parliamo dell'RSU, della pubblica amministrazione, dove una legge nazionale, una serie di accordi quadro hanno definito un sistema, come dire, diciamo così, va perverso, per cui tu ti misuri la rappresentatività sul piano aziendale, però devi avere la maggiore rappresentatività sul piano nazionale. Quindi le RSU, che sono gli organismi eletti dai singoli lavoratori, dai lavoratori, l'unico eletto dai lavoratori, non hanno titolarità a tutti i diritti, hanno dei diritti monchi, per cui non hanno titolarità, come dire, di indire ad esempio l'assemblea, che è il minimo. No, non hanno titolarità alla contrattazione, ma la titolarità è al soggetto unitario, che in verità non è soggetto, è soggetto unico, perché chi ha la maggioranza di quella RSU non garantisce molto spesso chiaramente agli eletti dei lavoratori degli altri organizzazioni sindacali di avere i diritti. Guarda, ti faccio l'esempio: io lavoro in un'azienda pubblica, lavoro tuttora anche per scelta in un'azienda pubblica, continuo a lavorarci e noi abbiamo la maggioranza assoluta nella mia azienda come SGB. Noi abbiamo appena approvato, fra l'altro con molti eletti giovani, abbiamo approvato, che è un caso strano nella pubblica amministrazione perché sono lì, siamo riusciti a fare dei concorsi anche durante la pandemia, che è un'altra cosa interessante da indagare, contro fra l'altro la regione Emilia Romagna che ci voleva vietare, sono una serie di robe. E noi abbiamo fatto un regolamento democratico, super democratico, che garantisce a tutti gli eletti i diritti, alle componenti, quindi alle singole liste, il diritto di dire l'assemblea, alla contrattazione, anche di dissentire, invece di sentire, cioè quando vai in contrattazione, se tu non sei d'accordo sulla piattaforma della maggioranza, però puoi aiutare la dialettica contrattuale, diciamo così, portando le tue istanze, che sono poi quelle di chi ti ha votato, che sono quelle con cui dei lavoratori con cui tu ti rapporti, eccetera. Noi siamo maggioranza assoluta, abbiamo fatto approvare questo documento e questo regolamento, e vi assicuro che lì, essendo minoranza, sia la CGIL che la CISL l'hanno accettato volentieri. L'hanno accettato volentieri l'imposizione della democrazia. Adesso la dico con una battuta, no? Allora, queste cose qua sono cose in verità che non riguardano le singole organizzazioni, riguardano i lavoratori. E purtroppo nella nostra città, che insomma che è la città della radio, che è Bologna, il di più è il fatto che siano giunte fra molte virgolette dal mio punto di vista progressiste, che impongano questa cosa qua. Fra l'altro non dappertutto, certo, perché noi a onor del vero, e chiudo davvero, nella regione Emilia Romagna, dove abbiamo un'analoga condizione rispetto al comune di Bologna, abbiamo titolarità ai diritti sindacali. Certo. Questo è, mi scuso per la lunghezza. Allora, torno da Raffaella, e ritornando, appunto, abbiamo citato misure come il reddito di cittadinanza. In questi giorni, un po' come le stagioni, sono tornati i piagnistei dei ristoratori che non trovano camerieri, personale, perché la gente preferisce rimanere sul divano a prendere il reddito di cittadinanza. Questo potrebbe essere un segnale di un primo obiettivo raggiunto, se non altro visto che il reddito di cittadinanza è comunque costantemente sotto attacco. Anche nell'ultima legge finanziaria ci sono state introdotte delle regole in più, insomma l'umiliazione alla I Daniel Blake, insomma, per intenderci. Però non è una misura che, da quando è stata introdotta, comunque ha contribuito a cambiare anche la mentalità di chi ha percepito, magari anche grazie ai libri di Marta Fana, il fatto che quello che stava svolgendo non era lavoro ma era sfruttamento. Cioè una domanda sostanzialmente sulla coscienza. No, infatti vive il reddito di cittadinanza, se l'effetto che ha prodotto è quello di far capire alle persone che, appunto, non è detto che si debba accettare di tutto nella vita pur di anche uscire dalla vergogna, perché c'è un tema di coscienza e c'è un tema di vergogna. La povertà in questo paese è una vergogna. E allora le persone, pur di non vergognarsi, nel corso degli anni passati andavano a lavorare anche per cifre miserabili e si facevano sfruttare. Ora è chiaro che, per come la vedo io e per come la penso io, il fatto che ci siano delle persone che, anche perché si siano, come dire, rese conto, abbiano preso coscienza e consapevolezza che non è detto, appunto, che per lavorare bisogna essere sfruttati, è un buon punto di avanzamento. Ora, cioè, su questo tema del reddito, tra l'altro, si è consumata una gigantesca balla e mistificazione. L'altro giorno, per esempio, parlando specificamente della Campania, si faceva riferimento al fatto che 1200 persone percettori del reddito di cittadinanza avessero imbrogliato. Cioè, una misura che, a fronte, diciamo, della capacità che ha avuto di interessare migliaia di persone, viene praticamente attaccata perché 1200 persone hanno deciso, magari, ecco, anche ingiustamente, però poi vai a vedere sempre in realtà di che cosa stai parlando, di prendere il reddito cittadinanza. E addirittura il piagnisteo è stato sul piano morale, perché una di queste 1200 persone campane era addirittura parente di uno degli assassini di Giancarlo Siani. Ora, chi è campano sa perfettamente che toccare il nodo, diciamo, della Camorra e di chi, diciamo, è stato artefice degli assassini di Camorra significa andare a toccare una forte sensibilità delle persone. Però è anche abbastanza, diciamo, non perché l'informazione non debba essere libera e non debba raccontare come stiano le cose, per carità, non è questo quello che voglio dire, però lascia perplessa qual è il punto di osservazione. Cioè, dove vai a mettere, diciamo, il focus? Cioè, vai a mettere il focus sulla degenerazione e non sul fatto che invece, grazie a quella misura, tante persone nel nostro paese hanno potuto rifiutare un ricatto. Ora, ci ho detto, è chiaro che forse, tra l'altro, in questa fase, da soli, reddito di cittadinanza e salario minimo non bastano, come dire, a garantire una vita dignitosa, perché appunto, lo diceva bene Marta, cioè sulle tasche delle famiglie in questi mesi cominciano ad essere consistenti i costi legati, diciamo, anche alle bollette. E quindi, per esempio, una cosa che si potrebbe fare, è andare nella direzione appunto di diminuire questi costi per le famiglie. Quindi, ecco, la diminuzione dei costi accanto alla misura appunto del salario minimo e contemporaneamente anche a una detassazione, tra l'altro, degli aumenti contrattuali, potrebbe essere uno strumento tramite cui riuscire a permettere alle persone, come dire, di vedersi garantito il potere di acquisto che viene messo fortemente in discussione in un momento complicato come quello che attraversiamo. A me sembra, diciamo, che ci sia una questione gigantesca e che tra l'altro da meridionale conosco bene. Cioè, il fatto è questo: molte volte nel nostro paese la retorica degli sfaticati e delle sfaticate, di quelli che non hanno voglia o quelle che non hanno voglia di far niente, è stata una retorica predominante. Del resto, lo diceva bene Marta prima, anche Confindustria, come dire, ha avuto subito, dopo la timidissima proposta di Orlando, da ridire, no? Rispetto a questo tema, dicendo è il solito spirito anti-industriale che parla. In realtà a me sembra che sia molto semplice. Non è vero, molti ci dicono, non è vero che non c'è lavoro in questo paese, siete voi che non volete andare a lavorare. No, non è vero che non c'è lavoro in questo paese, non è vero che il problema è che siete voi che non ci volete pagare, che è un'altra cosa. Va bene che c'è lavoro nel nostro paese, va bene che dovremmo tra l'altro venire a lavorare, e anche qua bisognerebbe fare tutta una discussione su qual è la qualità del lavoro che ci state offrendo. E questo lo dico perché è una questione che riguarda e che ha riguardato in maniera trasversale ampie fette generazionali. Basti pensare per esempio a quello che è accaduto di recente con la morte di due studenti che appunto erano a fare i percorsi di alternanza scuola-lavoro. E questo però per dire appunto che se il problema parte addirittura dall'età della formazione, cioè che la qualità del lavoro che ci propongono è la qualità del lavoro che alla fine ci spinge a morire, evidentemente c'è un problema che ha a che fare con la retribuzione, ma c'è anche un problema appunto proprio di qualità. E nel nostro paese mi sembra che né dall'una né dall'altra parte, nonostante, come dire, le battaglie che sono assolutamente importanti e fondamentali, che i sindacati in questo momento continuano a condurre quando e dove ci riescono, sia un gigantesco problema. Ultima questione, c'ha ragione Marta rispetto alla questione proprio che noi non possiamo accettare il fatto che la discussione sul salario minimo sia una discussione che venga fatta nel chiuso delle stanze, diciamo, dei palazzi, perché il rischio che vede lei, il rischio che anche io vedo molto concreto, cioè che alla fine magari si arrivi all'approvazione di una misura, perché in questo momento in fondo sembra essere tornato in auge con le dichiarazioni di Orlando, con i dossier sul tavolo del ministero, eccetera eccetera, e appunto se noi non riusciamo, questa diciamo una cosa che soprattutto i sindacati laddove esistono devono prendere come un elemento importante di valorizzazione, se non riusciamo a creare coscienza tra le lavoratrici e i lavoratori che esiste una possibilità per ridurre un pezzo di sfruttamento, facciamo un grande errore. Tra l'altro dico una cosa anche che ha a che fare per esempio con l'ambito del lavoro nel quale opero io, e fa abbastanza, diciamo, riflettere il fatto che anche in un posto che dovrebbe essere quello dei garantiti, no? La scuola pubblica del nostro paese, in qualche modo, nonostante quella l'ampia stragrande fetta di precariato che riguarda in maniera trasversale ATA, docenti e così via, Però esiste anche un pezzo consistente, tra l'altro, di persone che fanno un lavoro anche molto delicato, perché è un lavoro che ha a che fare con gli utenti più fragili della scuola, che sono gli assistenti specialistici, che vengono retribuiti una miseria. E questa cosa è la plastica rappresentazione di come non esista più questa dimensione, diciamo, del rapporto tra garantiti e non garantiti. Siamo nello stesso posto. E la cosa incredibile, la cosa allucinante, è che facciamo una grande difficoltà, a proposito di coscienza, a costruire una coscienza comune che sia in grado di fare una battaglia trasversale e che non vada solo ed esclusivamente a fare, diciamo, a bussare alle porte dei nostri sindacalisti di riferimento quando le questioni riguardano solo ed esclusivamente noi stessi. Dobbiamo creare, dobbiamo ricostruire una coscienza di classe, è talmente tanto importante perché, appunto, già da qualche anno, non lo dico io, ma mi pare abbastanza evidente, questa lotta di classe ce la sta facendo qualcun altro, non siamo noi ad imbastirla, e sarebbe il caso, come dire, di riorganizzarci. Allora, mancano veramente pochissimi minuti, quindi torno da Marta per chiedere un po' quello che diceva Raffaella adesso. È un tema che abbiamo affrontato nelle nostre chiacchierate in radio, anche in altre occasioni, cioè il modello industriale del nostro paese, no? Cioè lavori a bassa qualifica e a bassa paga, a basso salario, che è, come dire, un'impostazione che ci ricordava Raffaella comincia già dalle scuole, tant'è che, appunto, ha citato il caso di alternanza scuola-lavoro, ma come dire, le mani dell'industria, delle imprese sulle scuole sono anche in altri casi. Ti faccio una domanda a questo punto, non lo so se chiuderai in modo ottimistico oppure no: i lavoratori e le lavoratrici del nostro paese hanno la forza di cambiare questo intero modello, a tuo avviso? Ah, se mi stai chiedendo se in questo preciso momento storico diciamo la maggioranza della società italiana sia pronta ad abbattere il capitalismo, da realista direi di no. Però è vero che, appunto, quando si parla di qualità dell'occupazione, quindi qualità della produzione, dobbiamo guardarci in faccia. Cioè, non è normale davvero che metà degli intervistati e la propaganda sui giovani non vogliono lavorare gratis, come se gli altri volessero lavorare gratis, diciamoci anche questa cosa, venga dai ristoratori e gli albergatori, cioè un settore, quello del turismo, che comunque è un settore povero, è un settore che dal punto di vista industriale, produttivo, un settore nella capacità di espansione anche tecnologica è pari a zero, senza considerare poi non soltanto i sali da fame dai camerieri, ma come è trattato tutto il patrimonio culturale e artistico di questo paese, dove, appunto, tra volontariato coatto, finte partite IVA, esternalizzazioni no, il servizio civile e quindi anche però biblioteche e musei chiusi, perché il tema, secondo me, è anche quello: da un lato avere la capacità di imporre una strategia industriale, e io a un certo punto, ovviamente prendetela con una battuta, dico ben venga l'economia di guerra, perché l'economia di guerra significa dotarsi di strutture industriali, significa amministrare i prezzi, significa dare le case popolari. Ovviamente sono contro la guerra, soprattutto se imperialista, però ecco, quello è il tipo di economia di guerra, e qui non ce n'è nemmeno l'ombra. Dall'altro lato è pure vero che, appunto, la questione lavoro pubblico, cioè lavoro nel settore pubblico, abbiamo bisogno di 3 milioni di lavoratori. Chi meglio dei giovani laureati, diplomati di questo paese per davvero trasformare, e la sì che si può fare, la pubblica amministrazione? Che poi guardiamo, la pubblica amministrazione è uno degli strumenti, se vogliamo, tecnici di riduzione delle diseguaglianze, perché gli asili nido pubblici servono a chi non si può permettere le babysitter o chi è emigrato e non ha neanche i nonni, e io penso che si debba permettere l'asilo nido e non scaricare il peso della cura sui nonni o sulla famiglia, e così via. E quindi diciamo il trasporto, così come diciamo i comuni, così come questo, e come anche parliamo di ricerca di base, ricerca per esempio nella sanità. Dico, ricordiamoci che noi a un certo punto non riusciamo neanche a fare le mascherine nei ventilatori, cioè cose quasi di base, perché non abbiamo una capacità industriale mobile. Ritardi sulla riconversione diciamo energetica e transizione, che però possono essere colmati. Grande piano di assunzioni pubbliche che sposta verso l'alto l'asticella, cioè volete i lavoratori, li pagate, e li pagate in termini di salario, di sicurezza sul lavoro, stabilità lavorativa, ma anche progressione, perché quello che abbiamo noi in Italia è che la gente entra con una qualifica terzo livello commercio e ci rimane per 20-30 anni, non è normale, per questo anche i salari ristagnano. Io sono ottimista poi sulla sta cosa, si può fare? Cioè possiamo arrivare ad avere una rivendicazione politica, quindi non soltanto sindacale, ma politica forte su questi temi, e quindi teniamo insieme il salario, i diritti, l'occupazione, il welfare? Sì, Io almeno, cioè nel senso anche aneddoticamente, gli anni che ho passato, diciamo fino a qualche mese fa, stando in giro tra i lavoratori e portando appunto queste riflessioni tra dall'organizzazione del lavoro ai salari, dalla sicurezza sul lavoro alla tecnologia, la risposta è forte. Il tema però è anche quello, no? Che smettiamo di dire che tutto viene dal basso spontaneamente. Una linea politica ci vuole. Io purtroppo anche insomma questa impostazione politica. Dall'altro però senza questa democrazia, senza questa dialettica, come dire, senza la base scordatevi l'altezza, per usare un po' una frase diciamo retorica. E va fatto perché vanno coinvolte maggioranze, ma significa anche creare comunità conflittuali sui territori, perché significa che appunto l'inserviente che si incontra con la cassiera o il cassiere e lo stagista dentro la biblioteca o diciamo l'educatore esternalizzato poi che di fatto educa i suoi figli, si riconoscono come parte di una comunità che lotta insieme, no? Non pensano ognuno al suo piccolo spazietto, no? Il colore della panchina, l'orario dell'asilo, piuttosto che quello significa fare politica. Politica trasformativa. Si può, sì, si può, ci vuole molto, cioè non è che dall'oggi al domani ce lo riusciamo a far andare diciamo quadro così come lo vorremmo, però è a portata di mano. Vi ringrazio perché siamo arrivati in conclusione, vi ringrazio di essere rimasti con noi, Raffaella Cascello, Massimo Betti, Marta Fana, ringrazio anche quanti hanno ascoltato sia da radio che sulla pagina Facebook, e insomma ha voluto chiudere in modo ottimistico Marta, quindi no, perché sennò poi diventava triste. No, noi ci risentiamo domani sempre alle 17 e parleremo di logistica con Sicobas, Riders Union Bologna e Libera Bologna, che ha fatto un'inchiesta sull'interporto qui di Bologna, quindi l'appuntamento domani alle 17. Grazie mille e buon proseguimento.